Se non mi risveglio quando litighiamo, che brutto modo di morire, cadere dalle scale, male. Non capisco le persone che vogliono rischiare così, buttarsi col paracadute e sentire il cuore in gola che vola. A me sembra sempre di morire proprio mentre sto per atterrare, e nascondo la paura al mio vicino. Tu stammi vicino, stammi vicino. Mentre ascolto i tuoi lamenti, hai contato i miei difetti. Ci vorrebbe la palestra, un bel giro fuori pista, annuire con la testa prima di vedere. Il treno e non ci salutiamo, che brutto modo di lasciarsi andare. Quante cose voglio ancora dire, non ci perdoniamo niente. Sei ancora la mia Lonely Planet, ma non so più di quale paese. Tu che inventi la tua traduzione, come ti fai capire, ti fai capire. Se ci penso so di esagerare, sì davvero non ti preoccupare. Questo vento forte è fuori stagione, fuori stagione, fuori stagione. Mentre ascolto i tuoi lamenti, hai contato i miei difetti. Ci vorrebbe la palestra, un bel giro fuori pista, annuire con la testa. Ma se il mondo stesse per finire, è te che chiamerei. Non parlare con la bocca piena, fatti il segno della croce ogni sera. Guarda a destra, poi a sinistra, allaccia la cintura. Sarebbe un brutto modo di morire, perché il giudizio non è un parere. I capelli li ho schiariti, ma non ho mai chiarito con te. Mentre ascolto i tuoi lamenti, hai contato i miei difetti. Ci vorrebbe la palestra, un bel giro fuori pista, con la testa prima di vederti. Hai sorriso a denti stretti, e io ho contato i tuoi rimpianti. Ci vorrebbe la palestra, un bel giro fuori pista, da perderci la testa. Ma se il mondo stesse per finire, è te che chiamerei, è te che chiamerei.